部安全運営安全も帰ってきていいな。 c'è qualcuno su 10? Ci cuca dalle 10, c'è qualcuno? Ci cuca dalle 10? CQ10, c'è qualcuno? Ciao Giulio, ci sono io in ascolto. Ero in cucina poco fa, ho sentito e sono venuto a risponderti, che stavo preparando. Ciao, ciao Natali. Prepara, prepara. Che cosa vuoi fare? C'è un canale di morti, Ghicchio. Non è entrato nessuno, nessuno mi. Proprio sta andando e più mi sta disgustando. Gira, gira, mi vendo tutto. Mi dispiace solo che ho piazzato l'antenna nuova. Se non manco, non verrà manco di fatto sul suo casino va a piazzarla. Lo so, infatti non c'è nessuno. Anche ieri sera io ho acceso, ascoltato, per c'è qualcuno, non c'erano accesi di nessuno. La vergogna, è ormai finita completamente. Sono io, tu. Infatti, è vero, è proprio finita. Per gente ce n'ha cavato l'antenna, burba, no. Oh. Mi dispiace solo che ce l'avevo un dipolo e anche il progetto per farne uno bello, almeno per ascoltare, perché quella che ho l'antenna è sorda dove volevo ascoltare io, ma ero troppo disgustato e ho piazzato solo l'antenna per qua, sbagliando giustamente. I controlli e balle varie, comunque va bene lo stesso, questo è uno che va bene lo stesso, per cui ma degli altri poi durante il giorno, non c'è più un'anima, non ne vale più la pena nemmeno di accenderlo, guarda. E infatti c'è gente che se l'ha tolta l'antenna proprio, perché non ne sbatte niente di parlare qua. Perché quando vedi che non entra nessuno, la gente si stanca a un certo punto. E infatti, quello è... ormai è finita, qui è finita, non c'è niente da fare. La 27 a Sassari è finita, completamente finita. Per cui, così il discorso anche del PMR, anche quello c'è stato un boom in un primo momento, poi è sparito anche quello. Vabbè, comunque non fa niente, possiamo sopravvivere lo stesso. E in effetti sì, Giulio, il PMR c'è stato il boom, però è una frequenza che se non usi l'antenna esterna non imbatte, praticamente non, con l'antennino non fai nulla, con l'antennino suo, e quindi non lo usano per quel motivo lì, perché è anche pericoloso usare l'antenna esterna, ne hanno cazzagnato parecchi così. Infatti non si può usare, però diciamo che quando c'è stato il boom qui a Sassari la maggior parte della gente aveva l'antenna esterna e qualcuno magari ne approfittava anche a mettere qualche rinforzo oltretutto. Vabbè, comunque va bene lo stesso, vuol dire troveremo altre alternative come hobby, per cui non c'è problema, buttiamo via tutto e facciamo anche spazio, così almeno non ci impegniamo lo spazio per tenere certe apparecchiature che non valgono più a niente. Sì, in effetti sì, hai ragione, e cosa vuoi fare? Tanti soldi spesi per nulla, perché dopo la gente... Oggi per esempio non è entrato nessuno, solo tu, e io adesso sono in ascolto qua perché non avevo niente da fare. Adesso mi dispiace per la bella giornata, se no me ne sarei andato anche in giro, guarda, almeno avrei camminato un po'. Domani già andrò a farmi la spesa, se no avevo intenzione di andarmene a pescare con la bella giornata che ha fatto oggi. Cosa vuoi che ti dica? Ma vabbè, ci andrò dopo domani se fa bel tempo e che ci sia un bel mare. Me ne alzo presto e me ne vado a pescare. Altro che stare in ascolto qua. Infatti non ne vale più la pena. Sì, oggi è una bella giornata e domani sarà ancora più bella. Ho visto le previsioni, ho visto, domani sarà una giornata altrettanto bella come oggi, anche di più. Per cui, sì, e l'unica cosa è faccio una passeggiata, così almeno non siamo lì attaccati a questa cedentaccia del baracchino. Così camminiamo, soprattutto quello che è importante fare. Arrivate soprattutto alla mia età, bisognerebbe camminare, cosa che io non sto facendo più. Vabbè, io ho camminato un mega dopo il giro a piedi, ma adesso non ho più camminato. Vabbè Giuda, ti lascio che devo andare in cucina, mi dispiace, mi sarebbe piaciuto trattenermi di più, ma devo preparare per il pranzo, la 50 non c'è, quindi devo fare io qua, così quando arriva trova tutto pronto. Ci sentiamo Giuda, alle prossime. Ok, ciao Natali, ciao, buon lavoro in cucina allora, dai. Ci sentiamo alle prossime, se coincide. E se no pazienza. Ciao, ciao. Hola, hola, hola, pro radio. A sentirsi. Quindi, su che abbiamo? Brigido. Birillo, Birillo, su che andiamo, su, adesso sono appena arrivata, ci ho mangiato un bel piatto di polpi con patate, di lusso, mezzo litro di vino rosso e via andare. E vai Brigido, cosa ti difendi? Così è, Natali, così è, buongiorno comunque. Mi ascolti? Sì, la modulazione è bassa. Una cosa bassa che va benissimo la modulazione, anche se c'è l'antenna sempre saccarrata, tu ma già va bene. Andare, importante che mi ascolti. Io ti ascolto sempre, il giorno che non ti ascolto ci butto tutto dalla finestra. Allora, se non la più butto da qualcosa. Vabbè, buona domenica, dai che me ne vado a cucinare. Manuè, ci sentiamo più tardi, ma al limite o stasera. Tanto non sei di notte stanotte. Stanotte sì, ci esco 10:15, alle 10:30, a 10:30 devo essere servito. Pensa come una mazzara. Ok, dai, buon proseguo, là, buon tutto. Ci sentiamo Manuè. Ok, dai, cosa ha cambiato al centro? Ciao Natale.